Sì. Ma poi c'è. Quando sarà il problema, il problema sarà il problema 130, siamo a 130, sarà 120, ma siamo a 120, sarà 50. È quello in pratica che gli tocca, più che altro. 50 e 50 e basta. Adesso vediamo la vediamo un pochettino. Intanto a me mi hanno dato 10 e 15 a un certo punto, ma 50 vanno bene. Per aver comprato cazzo di coso, la commissione, quindi non c'è problema. 50 euro va bene. Positivi, come si dice, non negativi, è quello che si parla delle, a un certo punto, quindi dell'apparecchio poter parlare. Ogni tanto, quindi non c'è nessun problema, quindi se sei d'accordo a cosa del genere, la mattina mi ha fatto dire ok e non c'è nessun problema, d'accordo? Ok? Basta solo quello, non basta nient'altro, è una specie di contratto, va bene? D'accordo? Ok, ringrazio. Hola.